Ciao, sono sempre Franco Nebbia. Questa è la lezione numero 2. Vi preghiamo di controllare l'accordatura della chitarra. Per vostra comodità, ripetiamo le 6 note corrispondenti alle 6 corde a vuoto. Ecco il Mi, sesta corda, la più bassa. Passiamo alla quinta corda. La quarta corda è il Re. La terza è il Sol. Ecco la seconda, il Si. E la più alta, il Mi, la prima corda, detta anche cantino. Bene, ora che avete accordato lo strumento, cominciamo con gli esercizi di Franco Cerri per chitarra a plettro. Mario Gangi proporrà i suoi nella seconda parte. Quarto esercizio. Affinché gli esercizi della mano destra col plettro non abbiano ad apparirvi monotoni, anche se sono estremamente necessari, oggi proporremmo di appoggiare verticalmente l'indice della mano sinistra sulla tastiera, barra, all'altezza del quinto tasto, che sarebbe quello ideale per l'accordatura, e di premere le 6 corde. Si dovrebbero ottenere 6 suoni puliti. Si sa che a causa della sua conformazione il dito indice tende a piegarsi. Per ottenere una buona barra sarà bene premerlo decisamente contro la tastiera, cercando di evitare che le corde capitino nei punti in cui il dito si piega. Vi sono due tipi di barra, grande o intera, e piccola o mezza barra, perché vi si premono solo 4 corde. Con la barra grande sul quinto tasto otteniamo i suoni rispettivamente La, Re, Sol, Do, Mi, La. Con la mezza barra otteniamo, partendo dalla quarta corda, Sol, Do, Mi, La. È un esercizio in apparenza facile. In realtà la posizione del braccio e della mano sinistra è abbastanza scomoda, pertanto vi invitiamo a ripeterlo senza cedere alla stanchezza. Ed ecco, suonato per voi da Franco Cerri, questo quarto esercizio. L'esercizio numero 5 è molto simile a quello precedente. Unica differenza è che vengono pizzicate corde diverse, dalla sesta alla quarta, dalla quinta alla terza, e così via. e non dimenticate una pennata in giù e una in su. Ecco adesso l'esercizio eseguito da Franco Cerri. Ed ecco l'esercizio numero 6, che è un po' diverso, ma non più difficile dei precedenti. Conviene naturalmente che voi seguiate i riferimenti nella lezione scritta e approfittiate del fatto che noi possiamo fornirvi da qui i suoni corretti. Da capo. Per cortesia, ripetete l'esercizio. Nell'ambito della seconda lezione, vi proponiamo la sonatina numero 1, composta espressamente per il nostro corso da Mario Gangi, nelle consuete tre versioni, quella intera, quella del solo canto per facilitarvene l'apprendimento, e infine il solo accompagnamento per potervi esercitare suonando voi il tema come Cerri, accompagnati da Gangi. Ed ecco il solo canto. Un, due, tre. Segue il solo accompagnamento. Thank you. Ogni volta che prendi in mano la chitarra, pensa che ami la musica. Ti aiuterà a procedere nello studio. Era la Gagliarda di Vincenzo Galilei nell'esecuzione di Mario Gangi. E da qui prende avvio la lezione di Mario Gangi. Ecco il quarto esercizio. Questo esercizio è più difficile da spiegare che non da eseguire. Non lasciatevi dunque scoraggiare dalle apparenze e seguite con pari attenzione quanto è illustrato nella lezione scritta e quanto vi diciamo qui. Gli esercizi per la mano sinistra consistono nel percuotere la corda con il centro del polpastrello, cercando di ottenere un suono chiaro. Così. Per l'esercizio numero 4 si procederà nel modo seguente. La mano destra rimane in posizione di riposo appoggiata sulla fascia superiore. La sinistra invece lavora, cominciando con il primo dito che percuote la prima corda sul primo tasto, così. Ora, tenendo fermo il primo dito, aggiungere sul secondo tasto della prima corda il secondo dito. Adesso tenete ferme le prime due dita sui primi due tasti e aggiungete il terzo dito sul terzo tasto. Siamo sempre sulla prima corda, così. Agite nello stesso modo col quarto dito sul quarto tasto della prima corda. Riassumiamo. Il procedimento in progressione continua suona così. Primo, secondo, terzo, quarto dito. A questo punto le quattro dita della mano sinistra premono con la stessa forza i primi quattro tasti della prima corda. Ora ripetete, per favore. Seguendo sempre le illustrazioni, procediamo spostando il primo dito sul primo tasto della seconda corda, avendo cura di tenere ferme sulla prima corda, come nella posizione precedente, le altre tre dita, così. Ora spostiamo anche il secondo dito sul secondo tasto della seconda corda, tenendo ferme sulla prima corda le dita terza e quarta. Aggiungiamo il terzo dito sul terzo tasto e il quarto sul quarto tasto. Ora le quattro dita sono piazzate sui primi quattro tasti della seconda corda. I suoni che dovreste ottenere sulla seconda corda sono i seguenti: Do, Do diesis, Re, Re diesis. Proseguite allo stesso modo sulle altre corde. Quando sarete arrivati alla fine, se non sarete troppo stanchi, ripetete per cortesia l'intero esercizio. Mario Gangi afferma che lo scopo di questo esercizio è quello di sviluppare la muscolatura delle dita della mano sinistra, al fine di ottenere un'eguale pressione di ciascun dito sulla corda. Tenete presente che l'anulare e il mignolo normalmente sono più deboli degli altri due e che pertanto con questo esercizio possono essere rinforzati. Quello che abbiamo ascoltato è l'esercizio numero 5, che segue lo stesso procedimento del precedente. Unica differenza è che si svolge su corde alternate. Mi spiego. Le prime due dita percuotono la prima corda sul primo e sul secondo tasto, così. Ora, tenendo ferme queste due dita premute contro la corda, percuotete il terzo e il quarto tasto della seconda corda con le dita 3 e 4, così. Procedete allo stesso modo fino alla sesta corda. Ora per favore ripetete da capo, con pazienza, cercando di ottenere dei suoni chiari e ben definiti. Esempio. Ecco, questo non è un suono ben definito. Questo invece sì. Questo è l'esercizio numero 6. Qui sono validi tutti gli accorgimenti degli esercizi 4 e 5. Procedete così. Percuotete il primo tasto della prima corda col primo dito. Poi il terzo tasto della prima corda con il terzo dito. Tenete ferme queste due dita nella posizione indicata e percuotete il secondo tasto della seconda corda col secondo dito, indi il quarto tasto della seconda corda con il quarto dito. È semplice, così. Ripetete per favore fino alla noia. Ci rendiamo conto che questi esercizi rappresentano la parte meno piacevole dell'apprendimento della chitarra, anche per chi non avesse l'ambizione di diventare un virtuoso. Tuttavia, sono indispensabili per poter procedere nello studio. Siamo sicuri che conducono a risultati positivi. Ricordate che sono esercizi che servono per acquisire la esatta impostazione delle due mani.